andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera, Beppe. Luciani non offende mai nessuno. Ormai è tutto degradato ormai. Allora ragazzi, oggi ho firmato, non è che io creda molto nel referendum, devo dire la verità, ho firmato per l'ennesima volta un referendum che è proposto dalla Lega, ma potrebbe essere proposto anche da Rifondazione Comunista, non me ne frega niente, un referendum per l'abolizione della legge Merlin, per la legalizzazione della prostituzione, per l'istituzione in Italia dei bordelli, caro Parenzo, dei famosi bordelli che tu non ami, a te non piacciono queste cose. Ti ho visto, tronfio a fianco al signor Salvini, no, a fianco alla signora Ball. Ecco, appunto, ero accanto alla signora F. Ball, la foto che ho visto io, cioè non era in grande Salvini. Forma, lo sai, la signora F. Ball non era in grande forma, e tu che allora, avevi le mani non si vedeva dove. No, non faccio queste cose, aveva una borsa verde, ormai tutta verde, cerca di candidarsi proprio ad ogni costo con la Lega, farebbe qualsiasi cosa pur di candidarsi con la Lega. Salvini è un po' scettico, devo dire, su questa possibilità, signor Salvini. Vabbè, comunque sono andato a firmare per questi referendum, anche se non ci credo molto nel referendum, però come sai la zanzara ha fatto sempre una grande battaglia per la legalizzazione della prostituzione, per i bordelli, eccetera eccetera, e poi leggo da qualche parte che la Guardia di Finanza rompe i coglioni alle prostitute. Beh, è incredibile, cioè pur non essendo regolarizzata questa professione, la Guardia di Finanza a Rimini, credo, apre una partita IVA a 3-4 prostitute, le quali giustamente si ribellano facendo anche partire delle cartelle esattoriali come al solito, no, per avere 30, 40, 50 mila euro. Ma insomma ragazzi, decidetevi, o legalizzate, allora si apre la partita IVA regolare con una denominazione prostituzione, oppure com'è che diceva Razzi, non mi ricordo, donna, vabbè, poi magari ce lo faremo dire. Questo non credo. Oppure non è che potete rompere le balle a queste poveracce che già non hanno un euro, almeno molte di queste non hanno un euro, chiedendo indietro soldi del 2011, del 2010, eccetera eccetera. Basta, dai, andate a prendere gli evasori veri, non le prostitute in mezzo alla strada. Sera, Piazza Pulita, mi è sembrato di sentire in lontananza un tizio che mi sembra anche un rapper, no? Che si chiama J-Ax, che se la prendeva appunto con Salvini. Sì, famoso. No, sì. Con Sallusti anche se l'è presa. Sì, diciamo. Anche con Salvini in particolare. Dice che il crimine peggiore che hanno commesso i Rom è... Accendo la TV e secondo i telegiornali tutti i mali del mondo sarebbero circoscrivibili ai Rom. Se rubano sono Rom, se stuprano sono Rom. Io rimango convinto che il crimine peggiore dei Rom sia stato la carriera di Salvini. E io sono cresciuto di fianco a un campo Rom. Dico a J-Ax che non credo che la carriera di Salvini dipenda dai Rom. Certamente ci marciano. Gli deve molto. Salvini deve molto ai Rom, perché indubbiamente alcuni rubano e alcuni commettono dei crimini, ovviamente, come ho detto più volte, ma gli deve una carriera, perché ha costruito sulla ruspa. Ma ci sarà qualche percentuale, 2-3%, dai, su 2-3% sui Rom. Quanto vale la ruspa in un campo 2-3%, Rom? 2-3%. Ma allora vedi che sei d'accordo. Sì, qualche cosa. qualcosa, sì, è chiaro che qualche cosa va. No, perché sennò ma sì, siamo la politica, tutti a fa ragazzi, bu-bu. Però scusami, la politica. Ma perché dobbiamo prenderci per il culo? Ma noi siamo disincantati su tutto, così, no? Si fa anche ma così, no, dai. Però siamo però ho capito, ma se siamo disincantati su tutto, siamolo anche no, su ma questo. Certo, assolutamente. Cioè, Salvini prende i voti grazie ai Rom. Ma siamo disincantati. Cerchiamo di essere disincantati. Senti questa roba qua. Basta con sto disincantati, no, che non si capisce. Cerchiamo di essere disincantati. Ancora J-Ax che fa un paragone io tra... Io conoscevo J-R però, quello di Dallas. Io pure, ma noi siamo vecchi, siamo vecchi. No, tu sei vecchio. Ma io non so manco che cazzo canti J-Ax, di tutti la verità. Non ho mai sentito una cosa rapper, di rapper e odio rapper. Il rap. Odio. Non è che lo odio, proprio non sopporto come sonorità, sbagli. Dunque non la odio in qui realtà. Qui sbagli perché invece è uno dei cosi preferiti del nostro editore. Sì, dovrei editore. Conoscere, dovrei... Anche Squinzi adora i rapper. Non credo, questo non credo, questo non credo. Allora, il paragone tra quanto rubano i Rom e quanto ha rubato la Lega è un paragone che fanno in molti. Per me, poi mi danno deleghista, però è una cazzata pazzesca, sono due cose molto diverse. Molto diverse. La Lega ha rubato, cioè ha rubato il finanziamento pubblico come tanti altri partiti, e c'erano dentro la Lega. Diamanti. Se ne combinavano di cotte e di crude, hanno utilizzato male il finanziamento pubblico, ci sono leghisti corrotti, per carità, anche nella Lega c'è qualche legame qua e là con l'Andrangheta, eccetera, eccetera. Ma non è questo il punto. Come si fa a paragonare la questione dei Rom? Ai soldi che ha rubato la Lega, dai, su. Quanti campi Rom ci vogliono per rubare 40 milioni di euro, come ha fatto la Lega Nord di Belsito e Bossi? So già come verrò attaccato per questo mio discorso. Ecco la zecca comunista col portafoglio a destra e bla bla bla. Io sono libertario. Ma dovete veramente finirla voi politici di destra con questa retorica che i soldi sono il male. Che se hai un certo reddito, certe cose non le puoi commentare. Bravo. Sì, questo è vero, dai. Questo è vero. Bisogna dire che non è che se uno guadagna 300-400 mila, altrimenti io che sono ricco. No, non sono ricco, non è vero. Sei molto ricco tu. No, non sono ricco. Non potrei commentare nulla. Io non sono ricco, sono benestante, diverso, sono benestante. Ma non me ne vergogno, appartengo a quella borghesia benestante, non mi vergogno assolutamente. C'è pure uno scazzo tra Sallusti e Frankie High Energy, come cazzo si chiama quell'altro? Frankie High Energy. Com'è che ha fatto Sallusti, scusa? Ma guarda, pare miliardario al servizio delle multinazionali dello squalo di Murdoch, quindi non può dire un cazzo, mi pare, no? Ma detto con rispetto, so neanche chi sia questo rapper. Sallusti. Quel rapper che abbiamo sentito è un signore che ha una sua notorietà, perché grazie a chi? Grazie alla multinazionale Facebook, alla multinazionale Twitter, alla multinazionale Windows, insomma è quel mondo che loro vogliono contestare che li tiene vive. Ma non vogliono contestare anche Facebook, dei bei soldi. Le sembra che J-Ax abbia contestato Facebook? È tutta una grande ipocrisia. Mi sembra che Fedez la multinazionale di oggi è Facebook, chi ci prende per il culo è Facebook. No, chi ci prende per il culo è chi ci prende per il culo, non Facebook. No, però un po' è vero, quando qualcuno che si serve della grande multinazionale dello spettacolo, che è una grande multinazionale, rompe i coglioni sulle multinazionali che rovinano il mondo, insomma una mano sulla coscienza se la dovrebbe mettere. Questo però fa il paio, no, perché questo invece fa il paio con quello che abbiamo detto prima, cioè che non è che se uno ha dei soldini non può più commentare però le cose. Però bisogna anche avere una coerenza. Ergo, siccome non è che la Sony o altre società, non so quali siano, discografiche, affamano i popoli. Vabbè, ma che c'è? Uno tu stai facendo una distinzione tra le multinazionali. Se uno contesta che uno la globalizzazione lavorare, no? Dovrebbe contestare anche la globalizzazione della musica. Ma ci sono multinazionali e multinazionali, no? Questo comunque senti questa spiegazione magnifica. No, ma noi che siamo disincantati. Oddio che palle con sta parola disincantati. Senti un po' quello che dice Alfani invece. Sì, Alfani, no Alfano, Alfano, no Alfani. Bastoni e passamontagna. Secondo Alfano sono Max rimasti Bastoni? Per terra. No. Bastoni e passamontagna. Quelli che avete visto a un certo punto per terra, no? Perché sono rimasti per terra? Tutti hanno dato un'interpretazione. Sono rimasti per terra perché a un certo punto questi qua, in mezzo al fumo, no, dei lacrimogeni, eccetera, se la sono svignata. Hanno acceso anche loro dei fumi, eccetera, non so come, e se la sono svignata, hanno lasciato tutto per terra e via. L'interpretazione di Alfano. Le maschere antigas buttate per terra, le accette buttate per terra. Che vuol dire quella cosa lì? Sono le immagini della resa, sono le immagini della loro sconfitta, perché loro non volevano buttarle, loro volevano sviare i poliziotti. dai Alfano, su. Questa è veramente la grande presa per il culo. La resa, ma quale resa? Prima hanno sfasciato quello che hanno voluto e poi se ne sono andati in mezzo ai fumi. Cioè in mezzo ai lacrimogeni, in mezzo ai fumogeni che hanno accesi loro. Dai, su. Ma non si possono dire queste cose e pigliare per il culo le persone. La grande vittoria della polizia. Ma quando io ho visto la grande sconfitta dello Stato, poliziotti inermi, fermi di fronte alle vetrine sfregiate, alle vetrine dipinte, alle macchine distrutte in fiamme, i poliziotti poveracci, fermi, fermi. Ma adesso fermi tutti. La ricetta per la violenza, contro la violenza di strada, contro la violenza dei manifestanti, del senatore Antonio Razzi, incazzatissimo per questa cosa qua, incazzatissimo. Antonio, buonasera. Buonasera, buonasera a voi due. Ma come andiamo? Tutti i radioascoltatori. Benissimo, benissimo. Adesso sta proprio il ministro Alfano al Senato a riferire i fatti. A riferire i fatti, certo. Ma però, senti, ma com'è che si chiamavano quei manifestanti lì? Parenzo, aspetta, com'è che si chiamavano, sì, i manifestanti? Guarda, io non lo chiamo assolutamente, perché quelli, uno che si copre il viso per andare a rompere, sì, le vetrine, sì, e o bruciare le macchine, ma che cazzo c'entra le vetrine e le macchine? Puoi fare benissimo dimostrazione, sì, cioè, dimostrazione, sì. Come? Però lo devi fare a viso scoperto, perché ti devo vedere, poter vedere in faccia chi sei, non coperto. Ma insomma, io oggi, guarda, venendo da Pescara, Che è successo a Pescara? Hai incontrato qualche teppista? Mi sono fermato a andare di servizio, c'era pieno di poliziotti. Dice, dove andate? Andiamo alla manifestazione a Roma, perché a Roma c'è dalla scuola, oggi, sì. Della allora? Scuola. E gli ho detto, noi eravamo pure lì a Milano, ma inermi, noi non potevamo fare niente. Quelli magari ci sputavano pure in faccia e noi non potevamo nemmeno reagire. Ma è una cosa non normale questo. Ma senti una cosa, ma com'è che si chiamano questi qua, Parenzo? Il blocco nero, come si chiama questi qui? Black, come cazzo volete chiamare, però... ma si chiamano in un modo preciso, però. No, Black Bloc, com'è che si chiama? Black Bloc. Vabbè, ma tu che avresti fatto, Antò, se fossi stato là in piazza, stato ministro degli interni? Guarda, oggi che con le, diciamo, con le bombe di fumogene o lacrimogene, come le vogliamo chiamare. Sì, bombe lacrimogene. Non serve a niente, perché questi vengono già con tutte le maschere, vengono già tutti preparati. Tutti preparati. Non è che sono feste, si vanno a... No, dunque... Linea Senato, traffico, fra poco richiamiamo. Traffico veicolare. La zanzara. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Le ricette del senatore Razzi contro i Black Bloc. Caro senatore, allora io non ho capito, eravamo arrivati a un certo punto, poi si è interrotta la linea col Senato. Cioè, tu dici i lacrimogeni non bastano, no? Non bastano più, perché ormai vengono loro, lo sanno, e vengono già preparati con le maschere anti-lacrimogene, anti-gas, sì. Tutto quello che si vuol dire. E allora? Bisogna armarle, non di fucili e sparargli veramente, mancherebbe, quello no. No, però, per carità, però? Con pallottole di gomma. Sparare proiettili di gomma, tu dici? Proiettili di gomma, perché uno che viene col viso coperto, perché cosa viene a fare? Io se vado a fare una dimostrazione e lo vado a parlare, vado a viso aperto, perché se magari rivendico qualche cosa, sì, sembra giusto rivendicare, ci mancherebbe. Bisogna mettere la faccia, tu dici, no? Bisogna mettere la faccia, non che si nasconde come, tra virgolette, come un vigliacco. Ecco, ma tu di fronte a un black, se tuo figlio diventa un black, fosse diventato un black block, cosa avresti fatto con tuo figlio? Hai visto quella signora... alla finestra, sì. La signora di Baltimora, sì, ma insomma, se tuo figlio Black Bloc, che avresti fatto? A parte che non ci va, perché gli ho dato un'educazione, ma qualche calcio in culo sicuramente gli ho dato. Cioè, tu ai genitori due calci, consigli di dare due calci in culo? Ma innanzitutto ti dico, tu se devi andare a dimostrare, vai a dimostrare, ma fai vedere che sei mio figlio, che vai lì a viso aperto. A viso aperto. Senti, ma queste cose in Corea non possono succedere? No, lì non c'è assolutamente, lì è tutta una città tranquilla. Adesso il 28 vado, dai. Ah, il 28 vai, benissimo. No, io voglio capire, cioè in Corea i black bloc non potrebbero stare? Ma dove va? Ma lì stanno tutto tranquilli, non c'è modo da reclamare perché stanno così bene. Non è che stanno bene, è che non possono stare bene, li fanno stare bene. Dunque non c'è bisogno dei black bloc, cioè non potrebbero esistere i black bloc. Ma se metti uno va in piazza a protestare, che succede? Li portano dove? No, ma non ci vanno nemmeno, perché non hanno bisogno, lavorano tutti, stanno tutti bene. E dunque non c'è bisogno di. Non c'è bisogno di. No, hanno tutti in belle santa pace, belle tranquilli, vivono, mangiano e bevono. E lavorano. Che cosa deve che cazzo devi protestare? Dice? Che devi protestare? Mangiano, bevono. Però bisogna dire la verità: i black bloc italiani, invece di liberare i magistrati italiani. No, ci devo portare Parenzo lì a Pyongyang. A Pyongyang, sì. Io però voglio dirti una cosa, caro senatore. Io vado con una bandiera americana, però lì. Però la cosa fondamentale è una: i black bloc, perché non li affidiamo a Kim Jong-un, al dittatore coreano? Cioè invece i nostri magistrati alla fine sono troppo faciloni, no? Spesso li hanno anche liberati, eccetera. Sì, ma adesso io ho visto un po' il filmato. Cosa c'entrano quelle macchine bruciate? Io ho sentito uno ieri che diceva: no, quelle c'è la BMW, io glielo brucio. Ma se quello ha lavorato una vita per comprarsi una macchina perché si voleva avere la soddisfazione, certo. Tu gliela vai a bruciare. Pure tu c'è la BMW. Pure tu c'è la BMW, mi sembra. No? Ti sei sentito colpito particolarmente in queste. No, ma io mi sono fatto un mazzo. Pensa se ti bruciano la tua BMW. Pensa se qualche black bloc brucia la tua BMW. Che saresti pure un obiettivo da black bloc, te? No, ma mi ha rovinato 41 anni di lavoro. Onestà. Capito? Senti, ma perché tu sai che tutti sono ladri, per l'amore di Dio. Ma scusa, ma perché non glieli diamo al dittatore questi black bloc che restano? Diamoli là, magari li porta in qualche campo, no? Ci vorrebbe qualche campo di rieducazione per i black bloc, no? Tipo in stile Corea, che dici? No, questo io a loro gli consiglio che devono dimostrare, fare dimostrazione, ci mancherebbe altro. No, però voglio dire, la cosa fondamentale. Vabbè, ma questo l'abbiamo detto, dagli una bella rieducazione in stile coreano, no? No, Giuseppe, io ti volevo dire, queste che vengono dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, ma che cazzo vengono a fare qui a rompere le cose qui da noi? Vabbè, che dice, rompessero le loro cose nel paese. Rompessero, nuovo. Bruciassero le macchine in Germania e Svizzera. La Merkel non glielo permette. Senti una cosa, ma tu lo sai che cos'è un rapper? Un rapper? Rapper. Si magna? Dai, no, dai, su. I rapper, tu sai chi è J-Ax? No, un rapper, sai che cos'è un rap? Può essere anche un ballo. Ma non è un ballo il rap. Caro Razzi, ricordati che è. Dai, allora, i rapper sono di moda, sono persone, rapper. Sono diventati anche intellettuali, li sentono calzoni tutti. Calzoni larghi che fanno quel gesto con le tre dita della mano. Non ci avventuriamo, noi non sappiamo la mazza. Davide, beh. Vabbè, ma non sai che cosa sono i rapper. Vabbè, io lavoro e basta. Vabbè, ma che c'entra che lavori? Poi andate in tutti questi nomi difficili, che a me ne fregano cazzo di tutti questi nomi difficili. Vabbè, sai tutto sull'Italicum, però in compenso. Però nel compenso sicuramente sai tutto sull'Italicum. Beh, quello sull'Italicum. Allora spiegaci la legge elettorale, come fosse il nostro AINIS, il nostro Zanelbelski. Come funziona? Secondo te, Davide, sì. Ti sembra giusto che una legge elettorale lo faccia un partito solo? Vabbè, d'accordo, funziona? Questo d'accordo, giusto. Questa è la grande discussione. Su questo hai ragione. Come funziona? Questo è giusto, questo non è giusto. Questo non credo. Ma com'è? Come funziona? Tecnicamente, spiegami com'è la legge elettorale. Spiegamelo. Tecnicamente è che uno viene automaticamente messo lì dalla segreteria di partito e viene eletto. E sempre tutti quelli raccomandati. Vabbè, ma pure tu hai fatto le liste bloccate. E poi come funziona? Come funziona? Gli altri sono con le preferenze. No, ma quello le va cose. Bene, poi chi vince le elezioni, Antò? Che vince le elezioni il partito che ha pigliato più voti. Sì, ma come funziona? Non la coalizione. Il partito. Perciò e poi che, adesso, e le soglie di sbarramento come sono le soglie di sbarramento? No, ma facciamo cosa, proprio una guerra. Cosa sono le soglie di sbarramento? 3%, io per me minimo doveva essere al 5-6% per eliminare tutte queste parti. Vabbè, comunque è preparato Antonio su questo, è preparato. E la soglia per andare al secondo turno qual è? I primi due, chi non arriva al 40% il primo sa tutto, sa tutto, preparato, voto 10 sulla legge 10, sulla legge elettorale voto 10, voto 10. Molto bene. Se invece arriva al 38-39%. Devi fare il ballottaggio, amico mio. Sa tutto, amico mio. Fatte i cazzi tua sempre. Fatte sempre i cazzi tua. Ciao, caro. Ve lo dico a voi due, d'amico. Fatevi i cazzi vostri. Chiudiamo, andiamo dopo il giornale radio. Dopo il giornale radio 800 24 00 24, con i vostri interventi. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. L'Europa è sempre più presente nella vita quotidiana dei giovani italiani. Come migliorare le cose? Come rendere l'Italia un paese inserito nel flusso di circolazione dei talenti? Vogliamo sapere la vostra! Giovani Talenti è alla ricerca di 4 under 40 da inviare all'Europarlamento di Strasburgo e altrettanti cui consegnare un pass per visitare il padiglione europeo a Expo 2015. Come fare? Basta sintonizzarsi ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Tutte le settimane vi proporremo uno spunto di riflessione su cui potete inviarci una proposta in 140 caratteri via email. Fino al 16 maggio cogli l'occasione per dimostrare il tuo talento e lanciare proposte generazionali. L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato con Giovani Talenti. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Sono sul mio taxi, mi sembra di stare al bar, una cosa favolosa, guarda, sembra di stare al bar tutto il turno. Lo sai che cosa che mi fa più incazzare, David? Questi signori che hanno fatto incidenti, black bloc, tute nere, chiamale come ti pare, che diventano improvvisamente degli agnellini, diventano improvvisamente dei piccoli legulei, dei piccoli avvocatucchi, no? Dei piccoli avvocaticchi che cercano, no, di farla franca con piccoli mezzi, grazie agli avvocati e grazie soprattutto alle leggi italiane, a magistrati italiani che permettono a questi signori, anche se presi con le mani nella marmellata, di viaggiare liberamente in tutta Europa. Senti quello che raccontano davanti ai magistrati che li interrogano. Uno, per esempio, che è stato beccato con un bullone in mano, no? Ho solo raccolto un bullone e l'ho gettato subito a terra. Mi sono coperto il volto con la felpa per ripararmi dal fumo dei lacrimogeni. Un altro l'hanno pizzicato con una maschera, no? Quelle maschere antigas che abbiamo visto. Uso la maschera nera in neoprene per lo smog in quanto ciclista abituale, perché non ho la patente. Cioè, tu hai mai visto un ciclista a Milano con quella cazzo di maschera che portavano i signori questo in tuta nera? Credo, ecco. Questo non credo. Un altro ha raccontato a un magistrato di essere lì perché andava a vedere una partita a Bologna e l'hanno subito liberato. Ovviamente era in piazza a tirare i sassi, a sfasciare vetrine, eccetera. Per esempio non credo alla conversione improvvisa del famoso ragazzo intervistato da TGCom 24, quello con, no, con il cappuccio e con la felpa, il quale innanzitutto comincia a dire quello che pensa, perché nella prima intervista si dice sempre la verità. Cioè, quello che viene fuori nelle prime interviste è sempre la cosa vera, è sempre la cosa più sincera. E dunque senti come faceva lo spavaldo di fronte a TGCom 24, di fronte a quelle telecamere che lo inquadravano, e lui raccontava tranquillamente: beh, non ho spaccato nulla, però avrei spaccato tutto, perché è bello prendersela con le banche, è bello una manifestazione in cui c'è gente che spacca tutto. Faresti quello che avete fatto oggi? Ma io sinceramente non ho fatto niente, ho visto tanta gente che spaccava le cose, ho pensato cazzo, se avessi ancora anch'io qualcosa in mano spaccherei pure io. Cioè, io ho guardato, non è che sono stato lì. Però è stata una bellissima esperienza, ci stava. Quale motivo a questo punto dar fuoco a una banca? Che senso ha? Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia, secondo me. Cioè, questi ragazzi hanno fatto bene sostanzialmente, tu sei contento di com'è andata questa giornata? Boh, io quando sono in mezzo ai disastri sono contento comunque, cioè è una protesta, ci sta. Tu aderisci a qualche gruppo di contestazione? Boh, non lo so, quando c'è casino mi ritrovo in mezzo, faccio casino anche io, nel senso. Oh, questo era il Mattia San Germano, quello vero, quello del primo maggio. Poi a un certo punto arriva il padre, dice che si vergogna, che il figlio è un pirla, che gli do due schiaffoni, e all'improvviso diventa il pentito. Mi scuso, i miei genitori sono incazzati. Io chiedo scusa a tutti perché io ho usato un linguaggio sbagliato per spiegare un'emozione che stavo provando in quel momento, e mi scuso con tutti assolutamente. Io non andrei mai a distruggere la macchina di altri privati cittadini che pagano le tasse come i miei genitori. Ma i tuoi genitori ti hanno visto in TV, che ti hanno detto? I miei genitori ci hanno dato un ceffone, ti hanno detto? No, mio padre si è incazzato di brutto, è incazzato ancora adesso, e lo stesso mia madre, lo stesso tutta la mia famiglia. È semplicemente un coglione questo qua. È peggio quello che dice dopo. Ti dico la verità, è peggio questa marcia indietro patetica, ridicola. Beh, mi dispiace darti ragione, mi fa soffrire darti ragione. No, ma tu ascolta quello. No, ma è vero, è vero. Ascolta quello che dice. È la stessa sensazione che ho avuto io. Sì, ascolta quello che dice il suo insegnante di nuoto, no? L'insegnante di nuoto dice che a un certo punto lui, quando era più ragazzino, metteva le forbici nel viso, le forbici, cercava con le forbici di, no, di rompere le balle a uno dei suoi compagni di classe. Metteva le gomme americane nei capelli di una disabile. Nei capelli di una disabile. Che brava personcina. Questo era il signor Mattia, non so, Mattia San Germano, capito? E poi se la piglia pure con i genitori. Beh, no, santo poco. No, c'è poco di santo e molto di germanico, nel senso, sì, di, esatto, distruttore di cose, esatto, insomma, no? Ma e guardate che lo fanno anche in Germania, eh? No, ma non fanno niente, non in Germania. Credo. In Germania questi qua non lasciamo perdere, va. Comunque questo signore, che è il suo insegnante di nuoto, dice anche che i genitori spesso lo hanno salvato, cioè lo hanno giustificato di fronte alle cazzate che faceva da ragazzino. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. In 500.000, sette cortei in sette città, docenti, studenti precari, scuola in piazza contro la riforma del governo, dopo sette anni sindacati uniti. Il ministro dell'istruzione Giannini, sciopero politico, vogliamo ridurre il precariato. Grasso, pronti a sentire i docenti, Boldrini, rispettare la protesta. Renzi, sulla scuola ascoltiamo le ragioni di chi manifesta, dialogo su assunti e organizzazione, sulle riforme non mollo di un millimetro, si fa sul serio. Legge elettorale attesa per la firma del capo dello Stato, il PD fa i conti con il dissenso interno. Guerini, non cacceremo nessuno, Forza Italia, non ci divideremo. L'Europa vede rosa, ripresa avviata, ma in Italia crescita più lenta. Andiamo a Pordenone, Maria, vai. Parenzo, buonasera. No, sono Cruciani, allora, veramente, signora, sono Cruciani. Cruciani, sì. Scusami. Dimmi. Allora, ascoltami bene, io ho già chiamato una volta in trasmissione. Altri argomenti non hai? Sempre solo Salvini, prostituzione, curatoni, la multa ai clienti. Come dice, cara? Come, scusi? Come dice nonnina, cara? No, tu nonnina, che tu sei, non sei nonnino, sei peggio nonnino. No, dicevo la parola che ha utilizzato lei, gentile signora. No, scusi, da non ho capito di che parliamo noi, sempre puttane. Della prostituzione, della multa ai clienti. Vabbè. Ma lei si rende conto tirar via la legge Merlin cosa vuol dire? Beh, meraviglioso, signora. Tutto. Le case chiuse, le case chiuse, gestite dalle mafie. Signora, da dove sta chiamando lei che non si sente una mazza? Pordenone. Sì, Pordenone. ma da con che mezzo sta chiamando che non si sente? Telefonino, perché io non sono benestante borghese come te. Vabbè, ma che c'entra adesso questa roba qui? Ha ragione. No, ma il telefonino è una roba comunque da persone che se lo possono permettere. Appunto, capirai, è un telefonino da 40 euro. Ma non sembra cosa? No. Non sembra la signora Almirante Maria da Pordenone? C'ha la voce come donna assunta. No, io non sono la moglie di Almirante. Sì, vabbè, signora, non si capisce una mazza. La richiamiamo. Giovanni dalla provincia di Modena, dai. Ho capito, buonasera. Non capisco. Adesso ti richiamo, dai, Giovanni. Buonasera. Dimmi. Senta, io chiamavo riguardo ai New Globe, come si chiamano, quelli che hanno fatto quel casino lì a Milano. Black Bloc. Ma perché non fanno come... Io vedo nei documentari per addormentare un leone con la siringa, loro gli sparano la siringa, li addormentano e li prendono su già addormentati, questi cretini. Sono dei cretini questi. Non sanno cosa vogliono. Danno fuoco alle macchine. Io vendo autovetture. C'ho dei ragazzini che fanno dei finanziamenti per pagarci la macchina pian piano e questi qua gli vanno a dar fuoco. È assurda la cosa. Alfano dice bene... Dice che non è successo niente perché lui c'ha le guardie del corpo, c'ha la scorta, c'ha tutto. Allora Alfano sta bene, capito? Dunque io userei invece dei proiettili di gomma, delle fiale che li addormento, poi li prendo su già addormentati, dopo li porto e vedo quello che devo fare. Ma è difficile sparare delle fiale, però. Zanzara, delle fiale. No, però qui andiamo dai cannoni carichi di merda. Non sono cose impossibili. Con una fiale l'addormentano senza fargli del male, non gli vuole mica fare del male. Ma cosa ho capito, una volta? Però scusa, dobbiamo recepire i suggerimenti di ordine pubblico che vengono dai cittadini. Siamo passati dai cannoni di merda da sparare di fronte ai manifestanti invece dei cannoni veri e propri, che è un passo avanti, diciamo, ai proiettili di gomma del senatore Razzi. Adesso Giovanni da provincia di Modena dice sparare le siringhe non è così semplice. Sparare dei sonniferi per addormentare non è male come cosa, potrebbe essere una cosa. Tu spari, oppure no, fai una specie di nuvola di sonniferi, tutti quanti cadono come nei film, nei film di fantascienza. Ma cadono giù addormentati, poi li prendi, li fai riconoscimento, eccetera, siccome hanno commesso dei reati, in galera. Non è male, io sposo l'idea di Giovanni da provincia di Modena. Guardi, io c'ho molti amici carabinieri e poliziotti, sa che quando portano questi disgraziati davanti a un giudice, il giudice gli chiede come van preso per il collo, van preso per le spalle per cercare qualcosa di oceali andare. Cosa assurda, guardi. Fermo lì. Brucida. La Zanzara. Abbasso il pantalone, mi metto a pensare un po' a Parenzo e mi metto a cagare. Non è vero niente. Ragazzi, il post su Facebook, il post su Facebook di quel tizio lì, ovviamente era una metafora, cioè quella dell'insegnante di nuoto, eccetera, eccetera, del ragazzo di San Germano. Perché poi lo stesso post su Facebook, ci avete creduto, un po'. Il post su Facebook si conclude in questo modo. Non conosco quello che si è scoperto essere uno studente di Lacchiarella. Però mi sono imbattuto mille volte con il mio lavoro in realtà familiari che permettono lo sviluppo di parassiti come questo ominide dal pollice miracolosamente opponibile, con il quale commentare qualche articolo di Milano Today. Vabbè. Che è quello, un altro tizio che scriveva su Facebook. Se vuole dire che la colpa spesso è dei genitori, io non lo so, dipende. Certo, se un genitore ha protetto un figlio, un coglione del genere, dandogli sempre ragione quando faceva magari il bullo a scuola o faceva altre cazzate, sì, ovviamente. Non mi sembra il caso, però. No. Vabbè, dai, dopo i sonniferi di Giovanni dalla provincia di Modena andiamo... No, Maria, c'è di nuovo Maria o no? Maria? Sì, ci sono, mi senti bene adesso? Sì, ma da dove stai chiamando, Maria? Ah, il punto, vuoi sapere proprio il punto? No, ma da dove? Da dove sei? In che zona stai? Benone, Codroipo. Ecco. In mezzo alle campagne. E che fai in mezzo alle campagne? Che fai in mezzo alle campagne? Ci vive, poverino. Ci vive? Non immagini cosa faccio? No, che ne so, puoi fare mille cose in mezzo alle campagne. In mezzo alle campagne potresti andare a zappare, potresti essere una coltivatrice, potresti essere qualsiasi. No, faccio la prostituta, caro. Fai la prostituta, ma quanti anni hai, scusa, sì. Maria? Quanti 65. Anni hai? 65. Ma a 65 anni ancora la zoccola fai? Sì. Ancora la mignotta? Perché? E cosa devo fare? Ma che ne so, ma da quanti perché anni hai? Lo Stato italiano ci tutela? No, ma per carità, va benissimo, a 65 anni ancora eserciti, va bene, stupendo, certo, meraviglioso. Però con le tue trasmissioni ci stai rovinando il lavoro a tutti. Ma non mi pare proprio, guarda, scusa, non mi pare, perché? Ma pare, perché... Beh, guarda che veramente sì. Assomiglia a Donna Assunta l'Almirante, Sì, lascia perdere a Donna Assunta l'Almirante, io... Ma non faccio il cretino, Beh, è uguale la voce. È simile la voce. È simile. Ha novità sul busto? Donna Assunta l'Almirante. Ma è uguale, avete la voce... No, lei mi sta pigliando per il culo, lei è Donna Assunta l'Almirante che dice di essere una mignotta nella campagna di Pordenone. No, sono io. Tesoro, anche lui tesoro, sì. Devo dire nome e cognome. No, ma basta il nome, basta il nome. No, ma facciamo un po' di pubblicità. Facciamo un po' di pubblicità. Maria da Pordenone, per raggiungere la signora Maria da Pordenone di professione. Lo sanno, non ti preoccupare. Io ho un camper, sono su una montagnola vicino a un fiume, lontano dalle case, lontano da bambini e da tutto. Però scusi signora Maria, non credo che questo sia un servizio utile su Radio 24. Poi per carità. No, è utilissimo. Ma io contesto solo Parenzo che continua ad appoggiare. Anche, oggi ha detto che ha firmato anche il referendum. Ma io l'ho firmato. Cruciani. Lei si confonde. Cruciani si sta facendo, sta arrampicandosi sugli specchi. Per arrivare a avere una poltrona con l'attac sotto il culo. Vabbè, però signora, andiamo poi a prostitute. Vabbè, ma andiamo al sodo della questione. Lei perché in questo momento è libera di chiamare? Non c'ha clienti? No, tu ci stai rovinando il lavoro. Oddio, ancora i clienti, le multe, la già ha paura, lo volete sapere questo? Ma io sono contro le multe, sono contro le multe, signora. Parenzo è a favore, sì. Parenzo è a favore. Ma la multa di cada quando mondo è mondo, le prostitute sono sempre state. Signora, qual è la sua specialità? Nessuna. Ma sì, ce l'avrà. I soldi, Ce l'avrà una specialità lei. Che specialità, scusi, Specialità nel suo lavoro, ognuno è specializzato nel suo lavoro. Lei fa la prostituta, avrà una sua specializzazione, o no? Psicologia, io lavoro con la mente, la gente. Però guardi che oltre alla mente ci vuole anche qualcosa in più. Adesso non andiamo oltre, va benissimo. Ci mettiamo qualcosa in più, dai, non mi faccia essere tanto quindi volgare. Ma non bisogna essere volgari, la volgarità è sempre, come dire... No. Mandami Parenzo sulla mia zona, io, via il fiume, ma che non c'è un harem per lui. Ma come un harem? C'è un harem solo per Parenzo qua. Gentile nonnina prostituta, si prenda Cruciani. Ma no, però scusa, cerchiamo di riannodare tutti i fili. No Maria, perché mettiti in un punto in cui prendi meglio, perché la discussione è molto interessante. Allora, tu hai 62-63 anni, fai la prostituta, da quanti anni la fai la prostituta? Sono 7-8 anni. Non tanto però, scusa. Da come da 7? Io pensavo da 40 anni. Lo facevo in passato, poi avevo finito. Poi hai fatto la manager, diciamo, che hai fatto dopo? No, niente, la casalinga, mi sono mangiata i soldi. Sì. Stando ferma. Sì. E dopo mi è arrivata una brutta malattia, mi sono curata. Sì. E sono tornata per strada per cercare di racimolare qualcosa. Cioè, però, praticamente scusami, sta facendo una startup lei adesso della prostituzione. Con questo camper, giusto per mettere qualche elemento di economia, fa una startup adesso lei, giusto? No, io c'ho un camper. Ma che ne sa questa di startup? Sarà, no? No, però io voglio. Sì. Esercito nel camper per non avere problemi con niente. Però scusami, cara Maria, io ancora non ho capito una cosa. Quali sono i tuoi clienti? Perché insomma, sai, una nel camper, 62-63 anni. Insomma, non sei certamente un fiore, come dire, non sei nel fiore degli anni. Mi trovo in una zona dove i fiori non ci sono, grazie a Dio. Che c'entra, scusa. Capisci? Tu dici che sono tutte brutte là. Sono tutte mignotte brutte. Calma, non ci chiamare mignotte che ci offendiamo. Ma no, ma perché mignotte? Noi siamo operatrici sociali. operatrici sociali, va bene, cara operatrice sociale, quali sono i tuoi clienti? I giovani. Ma che giovani? Ma ti pare che i giovani vengano lì a fare in campagna la strada? Vengono, non ti sta a preoccupare, che ai giovani gli piacciono le vecchie. Ah, tu dici ai giovani piacciono le vecchie? Sì. Ai vecchi gli piacciono i giovani. E dunque i giovani vengono da te? Cioè il più giovane che è venuto da te quanti anni ha? 22-23 anni. Ma questo è un pervertito. 22-23 anni fa la stradina di campagna. Pervertito, tu non mai. Ma sono Cruciani. Cruciani, basta, mi sta diffamando. È Cruciani. A Cruciani piacciono queste storie di queste signore che sono vecchie, che parlano prostitute. Ma che sparando sulla mia zona. È Cruciani che gli piace quella roba. Basta. Allora, scusa. Lui è il moralista. Lui è il moralista. Esattamente. Ecco, Maria, ma ci sono i trans da quelle parti? È pieno qua il fiume. Ma che fiume è questo qua? Scusi, no, Il tanto basso, caro. Vabbè, ma adesso dotiamo Maria di un telefonino normale, perché sennò non si sente una mazza. Facciamo un collegamento fisso dal camper della prostituta a Pordenone. Maria da Pordenone. No, non fare troppa pubblicità, dai. Ma perché? Sennò viene la finanza, dici? Ma viene. mi vergogno. Ma come ti vergogni? Ma ti vergogni di che? Ma fare la finanza a me? Ma scusa, ma che viene? Ma perché dovresti vergognarti? Di cosa ti vergogni? Di fare la prostituta? Ma mi scoccia, sì. Ma perché? Ma fai la prostituta? Dovresti essere orgogliosa, faccio la puttana. No. Non sei orgogliosa? No, io faccio l'operatrice sociale. Vabbè, fai l'operatrice sociale, va bene. Ma quanto racimoli su? Quanto tiri su ogni all'anno? All'anno? Non lo so, non faccio i conti io. Ma vabbè, guarda che è uguale a Donna Assunta Almirante. Guarda che la chiamiamo Donna Assunta, scusa. No, per l'amor di Dio, lascia perdere quella fascistona lì. Ma perché? Vedi, è una resistente, è una antifascista. Mi vuoi far... No, bravo. Perché vedi che è simpatica, perché comincia a essere simpatica, è pure antifascista. No, però scusa. Maria, no, ma è interessante la cosa, perché magari trovate qualche punto in comune. Sicuramente la voce con lei, sì, forse un punto in comune lo troviamo. Beh. Gli dico quanti soldi ha rubato suo marito. All'Italia. Ma no, ma che c'entra adesso, povero almirante? Che c'entra? Povero almirante, vabbè, ma io non ho capito. Dove abiti tu? Dove abiti? Nel camper o c'è una casa pure? No, c'è una casa. C'è una casa. Vabbè, però c'è il camper, c'è una casa. Ma insomma, hai fatto un po'. C'è due cani. Hai fatto un po' di. Ma io dico, ma veramente questo di 22 anni che è andato da te? Ma come sei tu? Sei una bella donna oppure ormai sei finita? No, non sono finita. Ho appena incominciato, sono 8 anni. Cioè, ma come sei ancora? Ancora ti tieni su? Come sei mi tengo su, certo che mi tengo su. È normale. Cioè, uno la può consigliare a un amico che sta a Pordenone? Ti posso consigliare o no? No, che con me non vanno mica tanto d'accordo. Non mi consigliare a nessuno, li scelgo io quelli che devo prendere. Vabbè. No, abbastanza sveglia per queste cose, sa? Vabbè, comunque Maria. Io faccio delle selezioni ben precise. Fai delle? Fai delle? Selezioni ben precise. Delle lezioni? Ma che c'è bisogno di fare? Selezioni. Ah, ma che selezioni pure i clienti a 62-63 anni? Sì, caro, e che te pensi? Ma è una cosa incredibile. Perché fare la puttana e perdere la dignità per strada, ce ne sono tante che l'hanno persa. E tu non l'hai persa? No, non esiste. E perché non l'hai persa? Perché non voglio perderla, perché io non mi sento una prostituta, io sono una donna che esercita un mestiere per cercare. Ma sarà molto difficile. Cercare? Di mettere via dei soldi per dopo, quando sarò più vecchia, che ne so. Cioè ti fa schifo quello che fai? Ah beh, a me sì, Ma ti fa schifo. Fatto schifo, sì. Ti fa schifo. C'è un uomo nudo, grasso. Un uomo nudo, grasso, schifoso. Mamma mia, non mi parlare. Oddio mio. Parenzo nudo. Ma che ne sai? Mamma mia. Parenzo nudo con le occhiaie. Figurati nudo. Mamma mia, ti immagini? Scusi, gentile nonnina. Scusi. Beh, io nudo sono rispetto a Parenzo comunque. Nini, ti ho visto in qualche trasmissione. Io ti seguo molto. Sia a te che a Parenzo, vi seguo molto. Sì. Capito, Parenzo. Sei una cima, dai. Hai un gran cervello, ci sai fare, ok. Vabbè. Maria, ti saluto, va, mi raccomando, Ma i clienti quando arrivano? I clienti quando arrivano stasera? Ah no, alle 7:30 vado a casa, no? Alle 7:30, che fai? Che timbra il cartellino? Dalle 3 alle 7:30, stop. Dalle 3 alle 7:30, ma quanti ne hai fatti fino adesso? Manco uno oggi. Vabbè, ma che, ma quanto chiedi? 30. 30, ma è una cosa incredibile. Cosa vuoi chiedere? Ma 30 è una cosa patetica, ridicola. 30. Ma 30 ti capitano i morti di fame, i ragazzini oppure i morti di fame. Ma è una zona di morti di fame, eh? Ma non è una zona. Il Friuli è morto di fame da 2 anni a sta parte. Ma quando è mai? Morto. Vabbè, ma ciao Maria. Mai. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Signora Rivelli, signora Rivelli, ogni tanto. Andiamo a Massimiliano, Roma, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Valenzo. Senti, intervenivo per in difesa di quel ragazzo Mattia che ha dato quell'intervista a Mediaset 24. Sì. Per dire che insomma che a 21 anni c'è anche il diritto a essere idioti, il diritto all'idiozia. E noi abbiamo il diritto di dirlo che è un idiota, però. Punto. Sì, però vedere l'intero mondo del giornalismo e l'intero mondo della politica scagliarsi addosso a una persona che non ha ma fatto non è scagliarsi addosso, perché spesso è stato in questi giorni è stato ridicolizzato dalla rete, capito? Dalla rete stessa, peraltro. Ma non vi sembra una cosa stupida? Non è una cosa stupida, è abbastanza normale, perché sai, le persone che apertamente ti dicono che no, gli piacerebbe spaccare le vetrine, distruggere tutto, non è che si trovano facilmente, no? Questo qua all'inizio negli occhi, l'avevi visto quel ragazzo? Vabbè, era tutto finto sin dall'inizio, secondo te? No, magari poteva essere tutto finto sin dall'inizio. No, dico solo una cosa, e quello c'ha lo stesso valore giornalistico dell'intervento vista la Zingarella che fa 900 euro al giorno. No, stesso ma non è ma che c'entra? Identico, perché? Scusami, questo qua era uno che era in piazza lì, si è avvicinato un tizio con microfono e con la telecamera e gli ha detto: "Allora, ma che ne pensi di quello che è successo?" E questo gli ha raccontato le grandi inchieste. Ma non è le grandi inchieste, ma che cazzo c'entra? Dai, su, ma non c'entra niente ma le grandi inchieste. Siamo seri, siamo seri. È veramente un'intervista, sì, che fa colore, fa simpatia. Vabbè, ma scusa, ma non su queste cose qui bisogna vedere il momento in cui viene fatta l'intervista, cosa esce fuori e cosa c'è di altro. Cioè, è chiaro che in quel momento lì, con tutti quelli là, le tute nere, che certamente non si fanno intervistare dal primo arrivato con la telecamera, appunto, ce n'è appunto. Uno invece che sta lì col cappuccio, con la faccia da ragazzino, che ti dice apertamente: "Beh, bello spaccare tutto, mi piacerebbe spaccare tutto." È chiaro che va questa roba, no? Ma non è così complicato. No, quella roba lì fa colore ed è stata presentata come giornalismo. Ma chi se ne frega di questa definizione? Ma perché devi dare questa definizione, giornalismo, non giornalismo? Ma di che stiamo parlando? Ma mica è un convegno su cosa è giornalismo e cosa no. Hai ascoltato le parole sono sincere, non sono state prese in maniera normale in piazza, basta. Cos'è la grande inchiesta, il giornalismo? Da un ventunenne. Ma no, perché a 21 anni che c'è il diritto a essere coglioni? Certo, non è vero. Perché non ci fanno cazzate, certo che c'è il diritto a essere stupidi. Ma non è questione di 21 anni. Non è mai stato stupido. Ma io sono stupido anche adesso, anche al 48. Guardi che tutti noi abbiamo avuto 21 anni, però c'è chi a 21 anni tira le pietre o rivendica il fatto di volerlo fare e chi invece non lo fa, e poi questo è il prezzo che uno paga. Quello non l'ha fatto, ne ha solo detto. Invece c'è il diritto a prenderlo anche in giro, perché in un contesto come quello, come ha ricordato Cruciani, quel signore con una bella telecamera in vista e un microfono era esaltato di quello che stava dicendo. Questo è il punto. Non ho capito qual è il problema, però. Non ho capito. Io francamente non capisco qual è il problema. È stato messo in croce una persona e non sono stati messi in croce i devastatori di Milano. Chi l'ha detto che non sono stati messi in croce? È chiaro che siccome non parlano, quello ha parlato ed era più o meno vicino, anche se diceva di essere capitato per caso, comunque di non aver fatto nulla, è evidente che questo qua diventa un caso. Poi i genitori intervengono, dicono che è un coglione, un pirla, ma non è un violento. Lui dice: "No, sì, mi pento, adesso vado a pulire le strade, sono stato un deficiente, eccetera, eccetera." Il pentimento era stata, secondo me, la cosa peggiore di tutte. Ma vedere i politici che attaccano. Ma i politici, ma chi l'ha attaccato? Qualche trasmissione gli hanno fatto vedere le immagini e poi hanno commentato. Sì. Ma nessuno ha attaccato il ventunenne. Nelle grandi dichiarazioni ufficio italiano, tutti attaccati. Vabbè, ma questo, ma nessuno l'attacca. Quindi abbiamo solo preso per il culo noi. Ciao, ciao. Sì. Ritorno alla Zanzara, caro Parenzo. pezzo, grande ritorno, grande ritorno. Un momento. Che c'è, dimmi, che c'è? Abbiamo un minuto e 40 secondi concordato per spiegare esattamente che cos'è una guerriglia urbana. No, come una guerriglia urbana, Davide? Spiegheremo in un minuto e 40 secondi che cos'è una guerriglia urbana. Ma no, ma scusa, ma non si fa la guerriglia urbana. Perché vuoi spiegarlo cos'è la guerriglia urbana? Va spiegata come funziona una guerriglia urbana. E come funziona? Ci spieghi? In un minuto e 40 secondi. Ma no, un minuto e 40 secondi magari è anche poco. Come concordato. Ma non è così, non è così. Poi non si danno lezioni su come si fa la guerriglia urbana. Vabbè, io voglio sentire da Mario Capanna. Buonasera, buonasera. Ciao. Come andiamo? Si va. Senta, come si fa la guerriglia urbana? Lei potrebbe dare lezione. Voleva darla a Parenzo, non vedo perché è stato represso. Come si faceva, Marione? Come si faceva? Ho fatto lotte alla luce del sole, che è un'altra appunto cosa. Cioè andavate a viso scoperto, dici tu, no? Beh, ci mancherebbe, non è che usavamo divise o maschere o robe del genere, andavamo in prigione, bei tranquilli, quando ci occorreva, abbiamo subito processi, eccetera, però abbiamo fatto una rivoluzione di cui si parla ancora. Si parla ancora, non esageriamo. No, raccontaci, dai, l'occupazione della statale di Milano. No, non ce ne frega niente. Meraviglioso. Non ce ne frega niente alle 19.50 del che giorno è oggi, del 5 maggio. Sinceramente, di sentire l'occupazione, no. Io voglio capire una cosa. Quelli, secondo te, i black bloc, ecco, i sì, black bloc, cosa sono? Dei coglioni? Sono mandati, come dice qualcuno, da agenti esterni? Mannaggia, vedi, Cruciani, come dimmi, purtroppo siamo distorti e non è colpa tua, no? Si parla dei 500, che poi forse erano anche meno, black bloc, del casino che hanno fatto, e non si parla delle altre migliaia di giovani e di manifestanti che non hanno potuto far conoscere le ragioni della loro proposta. No, ma per dire, no, vedi come tutto diventa falsato, diventa distorto. Vabbè, hai ragione, della manifestazione. Voglio dire, no. Ma tu come li consideri questi qua? Dei coglioni, dei teppisti, dei delinquenti, oppure comunque qualche ragione ce l'avevano quelli compagni che hanno spacciato che sbagliano le vetrine? Sicuramente sono delle persone. Sì. Ritengono di non poterne più della società attuale, di tutte le sue contraddizioni, storture e così via. Ritengono di non poterne più, cioè non, esatto, le possono e più. E dopodiché però usano delle forme di protesta, sì, che richiamano un po' le tendenze al luddismo, sì, tipiche dell'Ottocento inglese, ai tempi, allora, di Carlo Marx, per, sì, cui... per cui non riescono nemmeno loro, al di là delle vetrine sfasciate, a far capire le ragioni della loro insoddisfazione. Cioè hanno qualche ragione, dici, di fondo hanno qualche ragione. Ma guarda, cioè quando tu vedi una BMW che brucia, no? Una BMW che brucia, una macchina che brucia, una vetrina. O una vetrina. Permettete che possiamo tentare di elevare un pochino la discussione. Cito un dato di fonte ONU, no? Per, sì, ma no, ma che c'entra l'ONU adesso? No, per capire l'ONU? Se il disagio è una cosa cervellotica o invece è fondata nell'animo. Ma questi non è che hanno disagio, ma sono quelli. Dei teppisti, basta. Mi fate dire sì, d'accordo, cosa. Ma sono, sì, teppisti, no, basta. L'1% dell'umanità, sì, sì, possiede da solo oltre il 50% delle, sì, ricchezze planetarie. Vabbè, d'accordo, ma che c'entra con la devastazione di una banca? Alto, vabbè. Il 10% della popolazione, sì, mondiale, sì, controlla da solo più del 85% delle ricchezze. D'accordo, ma questo ma che c'entra? Non c'entra, no, con, no, la riassumendo, vuol dire, riassumendo, il 10% di qui, sì, che controlla, sì, tutto, sì, dalle rotte petrolifere all'economia, alle, sì, borse, tutto. Gli eserciti, i governi, i media e tutto quant'altro, sì, e il 90% dell'umanità dall'altra. Perfetto. Allora, vabbè, dunque? Perfetto. È possibile, ma non è perfetto che il mondo vada avanti in questo modo? Ma che c'entra, ma questo col poveraccio che ha visto la sua macchina bruciare a Milano? Scusa. Appunto. No, c'entra con il fatto che le ragioni per una protesta sono ampie, numerose e profonde. Ma d'accordo, ma questi... Ho già detto che i modi con i quali i black bloc hanno espresso la protesta rappresentano l'autolesionismo. Ma non l'auto, hanno devastato altri, non l'auto. Non è che hanno scusa, ma il proprietario di una macchina non dovrebbe essere incazzato? Il proprietario di una macchina bruciata non ha diritto, ha diritto a essere incazzato o no? Beh, è verosimile che abbia diritto a essere incazzato. Però alla fine tu dici è un danno collaterale. No, sto dicendo che sono delle forme di lotta che non portano a niente. Non fatemi dire ciò che non penso. No, e che ne so, magari pensi che sono allora, compagni che sbagliano. No, che non so, portano a niente, portano alla devastazione. Non è una locuzione che io uso, ma io dico un'altra cosa ancora. Di fronte al quadro che abbiamo delineato rispetto, sì, ai dati del di disuguaglianza, eccetera, sì. Perfetto. Sì. No, però capisci, si fa subito a far finta che. Ma che c'entra questo con la devastazione? No. Cosa? Momento, mentre noi stiamo parlando. Abbiamo ancora cadaveri di migranti nel Mediterraneo. Ma scusa, ma qui c'è gente che ha visto la vetrina dei negozi sfasciata, Mario. Quelle cifre vogliono dire che mentre noi stiamo parlando, 1 miliardo di persone non ha al mondo assistenza sanitaria. Vabbè, un altro miliardo è analfabeto. Ma che gliene frega a quelli che vanno in strada con le maschere antigas? L'energia elettrica. E un altro 1 miliardo e 200 milioni non ha idea di che cosa sia l'acqua potabile. Ma che c'entra con quelli che vanno con le maschere antigas? Appunto, ma io non li sto difendendo. Beh, non ho capito. Che cacchio volete da me? Aspetta, fermo che c'è la pubblicità, fermo. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Gnappi. La zanzara. Lassativo parento e alla defecazio non ci penso. Siamo ad alti livelli qua. Allora, questo piccolo intervallo mi ha fatto però incazzare ancora di più. Adesso lo dico subito a capanna papale, io lo voglio dire proprio. Allora, ci hai fatto, Mario, un pippone pazzesco sulla distribuzione. Aspetta, sulla distribuzione, no, il vero capanna, non tu. Sulla distribuzione della ricchezza nel mondo, sulla disuguaglianza, no? E per carità. Qua. Ma è un quadro vero o no? Ma beh, può essere vero i dati dell'ONU se sono interpretati. Può essere, è vero. Va bene, è vero. E poi tu non vuoi rinunciare al 10% del vitalizio. Cioè, ci fai un pippone pazzesco sulla distribuzione della ricchezza. Allora siete monomaniaci. Ma non siamo monomaniaci. Siete a rincoglionimento fisso. No. Ne abbiamo già discusso e non intendo più parlare. No, ma ho capito. Siamo oclocratici. Come sapete, non è questa la questione. No, me l'hai fatto venire in mente adesso. Perché hai parlato della disuguaglianza. Adesso vi becco proprio al punto. La disuguaglianza nel mondo e poi non vuoi rinunciare al 10%. Vergogna. Ma che cacchio stai dicendo? Vergognati. Lasciami parlare. Avete visto la sentenza della Corte Costituzionale dell'altro giorno? Ma che abbiamo visto? Ai diritti dei pensionati, perfetto. Ah, sì, sì, certo. L'ho vista. Io con il ricorso ho anticipato quella cosa. Ma non mi pare proprio. Nel senso che i diritti acquisiti delle pensioni sono intangibili. E adesso il governo in braghe di tela, perché grazie alla controriforma Fornero-Monti, votata da PD, Forza Italia. Vabbè, ti devono dare anche più soldi. Deve tirar fuori 11 miliardi. Cioè, ti devono dare più soldi anche. Questo abbiamo già chiarito. No, non abbiamo chiarito niente. No, c'entra. Tu ti devono dare più soldi, quindi. E al contrario di voi due non sono salariato di Confindustria. Ma che cosa c'è? Non è una cosa negativa. Non è mica Totorrina la Confindustria. Adesso andiamo avanti. Non è mica Totorrina la Confindustria. Andiamo avanti sulle cose che abbiano un minimo di senso. Però scusa, noi siamo salariati della Confindustria, ma non è che ci vergogniamo che è la camorra, però scusa. Esatto, c'è dipinto come la camorra. Adesso scusa. Vuol dire che siete salariati da quell'1,10% che controllano le ricchezze. Cioè siamo degli affamatori del popolo. Per loro, io no. Io non lavoro per loro, lavoro per la gente. Ma che lavori per la gente? No. È abissale. Ma che abissale? Facciamo parte di due mondi diversi. Ah, questo lo puoi dire a voce alta. Noi di quell'1% di sfruttatori. La cosa vergognosa è che tu hai dipinto un quadro che della ricchezza. Volete sapere da me? Aspetta, appunto questo. Hai dipinto una situazione che è quella della ricchezza del mondo. I ricchi, quelli che non hanno nulla. E poi chiedi il vitalizio che venga addirittura a rinunciare. Un altro elemento di riflessione. Ma non vuoi rinunciare al 10%. Siamo in piena Expo, giusto? Ma che c'entra adesso? Aspetta, vediamo. C'entra perché è un ragionamento. Io so che voi siete refrattari ai ragionamenti, però lasciatemelo fare, no? Sì, prego. Expo dice nutrire il pianeta. Giusto, bellissimo. Ce la fa. Che dice, guardate che con l'attuale produzione... Sì, ma vuoi rinunciare al vitalizio o no? Vi prego, non interrompete. Sì. Con l'attuale produzione agroalimentare mondiale, noi siamo in grado di sfamare il doppio dei 7 miliardi di bimbi. Beh, rinuncia al 10% al vitalizio, così almeno... Perché questo non avviene? Semplicemente perché la maggior parte dei poveri, cioè 2/3 circa dell'umanità, lui parla dei poveri, capito? Non hanno i soldi per comprare gli alimenti. Ma che c'entrano con le vetrine sfasciate? Con 5.000 euro di vitalizio e parla dei poveri. Non vuoi rinunciare al 10% e parli di poveri. Ma è una cosa incredibile. Di questo genere, la gente è disperata. giornata. Appunto, appunto. Rinuncia al 10% del vitalizio. Rinuncia al 10% del vitalizio, allora. Ma che cacchio c'entra? Ma porta pazienza. Ma c'entra? Io, vabbè, è vergognoso questa idea che voi volete far passare, secondo cui io rubo i soldi alle vecchiette. Beh, no, beh, voi con questa informazione guarda, è falsa. No, che c'entra Confindustriale? Perché noi che ci frega di Confindustria? Non so che cosa vi frega, ma allora se non vi frega passiamo ad altro, no? No, però scusami, tu hai fatto vuoi essere il paladino dei poveri. Perché questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, oclocratica. Una informazione da oclocrati. Ah, dai. Ma perché non sei tornato? Perché non sei tornato da Giletti? Scusami, Mario. Ah, questa è una bella domanda. Allora, appunto, guarda, mi cogli proprio in un momento. Giletti. No, sì. Momento in cui ho mandato una mail a Giletti. Una mail. Con 4-5 giorni, chiedendogli di tenere fede alla promessa pubblica. E se n'è fottuto, sicuro. TV, sì. Di fronte a 4 milioni di telespettatori. 4 milioni, sì. In cui prometteva che mi avrebbe richiamato per un confronto con lui. Sì. Sulla economia della globalizzazione. Ma sicuro, la domenica pomeriggio, ma dai, certo, a partire dalla famosa frase che il Papa disse. Sì, il Papa, certo, sempre il Papa, rinuncia al 10%. Questa economia uccide. Rinuncia al 10%. Questa economia uccide, non il 10%, questa economia rinuncia al 10%. Chiamiamolo al volo, Giletti, adesso. Questa economia uccide, d'accordo? Ma perché non rinunci proprio tu? No, un momento, però Giletti non mi ha ancora risposto. Ah, ma come mai? Chissà come mai. Sono curioso di vedere. Ma se ne sbatte le palle, dai. Se il fedifrago manterrà fede alla promessa o appunto sarà fedifrago e quindi si ne mangia la parola data. Senti, ho dato una piccolina notizia. Ma perché, scusami, ma la notizia è importante. Sì, la notizia è importante, è fondamentale. Io non capivo, ma perché non rinunci proprio a tutto il vitalizio? Beh, se mi date da mangiare voi lo posso fare. Cioè, perché tu senza vitalizio muori. Se mi date da mangiare voi io lo posso fare. Cioè, senza vitalizio muori di. Se voi mi date la metà del vostro stipendio Confindustriale ci posso fare. Confindustriale, c'è della radio, ma parte, però, siccome non ho rubato nulla, non si capisce perché dovrei farlo. No, perché siccome ti fai paladino dei poveri, almeno al 10% potresti rinunciare, no, come atto di generosità. Come atto di generosità. Quei soldi mi servono per continuare. Oltre a darvi bacchettate sulle dita, voi due informatori oclocrati, sì, mi servono per continuare a 70 anni della mia giovinezza a continuare a lottare per i diritti, ma, per le persone. Ma non puoi lottare per le persone, non vuoi rinunciare? Non ce la fanno ad andare avanti. Per ma non eri in piazza, però. Non eri in piazza. Li uso. Ma non eri in piazza con andiamo quei. Andiamo avanti. No, non eri in piazza o no a Milano quando c'è stata la manifestazione? Con i Black giorno. Bloc. Non eri in piazza con eri i Black in piazza Bloc. O no, Marione? No, ero sulla mia collina in Umbria. Ma che te frega ormai? Ah, in Umbria eri a coltivare gli ulivi. Ma non si può fare. Non si può fare l'elogio, o comunque non si può fare dipingere il mondo come il mondo dell'ingiustizia e poi uno non rinuncia al 10% del vitalizio, che è un privilegio. Ma dai, ma è una cosa vergognosa. Detto, ma è vergognoso, ma dai. Altro, ma è veramente una vergogna questa roba qua. Io penso che è una roba spudorata. È una roba spudorata. È una roba spudorata questa roba qua. Tu hai detto il mondo, i poveri, la distribuzione. È spudorata questa vostra falsificazione. Ho già detto che il problema non sono la decurtazione. Ma a che punto siamo del ricorso? A che punto siamo del ricorso? Il problema non è la decurtazione. Ma magari lo bocciano sto ricorso. Guarda, stappo le bottiglie di champagne. Prima o poi si pronunci, no? Stappo le bottiglie di champagne quando lo bocciano. Guarda. Sarà poi da ridere, no? Stappo le bottiglie di champagne. Non è la decurtazione. Il problema è come la Corte Costituzionale, ripeto, l'altro giorno ha sancito nei confronti di milioni di pensionati che non si possono toccare i diritti. Ma perché non chiedere un risarcimento? Lo volete capire o no? Ma basta con i diritti acquisiti, sono privilegi, sono privilegi. Dire falsità e possibilmente andiamo Sono privilegi. No, ma quindi vuol dire che in base alla nuova, scusami Mario, vuol dire che allora per coerenza, in base alla nuova sentenza della Corte che tu hai evocato poco fa, vuol dire che chiederai la rivalutazione del tuo vitalizio. Questa è la conseguenza. Io aspetto il pronunciamento del TAR. Ho molta fiducia nel pronunciamento. Ma magari bocciano tutto, guarda, stappo le bottiglie di champagne. Attenzione. Se bocciassero tutto, sarebbero cavoli anche per gente come voi due. Perché? Perché vuol dire che in futuro qualsiasi governo, sì, accampando, sì, le più strane motivazioni, sì, crisi finanziaria, sì, potrebbe, pubblico e via, può intaccare tranquillamente i diritti acquisiti a livello di massa i diritti acquisiti. No, ridai con questi diritti acquisiti, basta con questi diritti acquisiti. Siete proprio autolesionisti anche voi. Va bene, ciao Mario, ciao. No, ciao. Come, perché mi salutate? E che dobbiamo fare? No, che scusami, possiamo continuare? Che possiamo continuare fino all'infinito? Non possiamo continuare, condanniamo definitivamente le violenze di questi 500 teppisti. Ecco, questi qua sono teppisti, possiamo dire che sono teppisti definitivamente, sì, o no? Feccia della società. Scusate, ma vedete, non è possibile tagliare. Ma come no? Sono feccia o no? Bisogna dirlo. Ho già dato il mio giudizio, che vabbè, ovviamente non è di approvazione. Non è di approvazione. Ma tu stai dalla parte nella povertà del mondo. Quale oggi, ma portate pazienza, oggi 5 maggio. Ci sono state centinaia di migliaia di giovani, studenti, sì, lavoratori della scuola, sì, insegnanti, modelli e quant'altro. Tu sei privilegiato, però. Hanno fatto uno sciopero, sì, perché vogliono una scuola a misura. E dagli il 10% del tuo stipendio. A misura di dagli progresso, il 10%. Dagli il 10% del vitalizio. Dagli dagli il 10%. Stiamo parlando di queste fanfaluche. Dagli il 10% del vitalizio. Dagli il 10% del vitalizio. Dagli il 10% del vitalizio agli studenti, ai professori precari. Dagli il 10% del vitalizio. Dagli il 10% del vitalizio. Dopodiché, che cosa si Ma è così. Intanto dagli il 10% del vitalizio. Dagli il 10% del vostro lauto stipendio. Perché non lo fai? Io me lo sono guadagnato, tu è un privilegio che hai avuto. Certo, tu sei un privilegiato. Tu sei un privilegiato perché hai contribuito con i soldi nostri in maniera diversa rispetto a quello che contribuiscono i cittadini. Pagatemi. No, te la sei creata da solo la pensione. La pensione ve la siete creata da soli, vergogna. Che uso per fare volontariato. Che volontariato? E per combattere le scemenze che gente come voi propina. Va bene. Capito, è molto diverso. Va bene, ciao Mario, a presto. Ciao, grande lottatore, ciao. Pubblicità. Perché questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da oclocrati. La Zanzara. Mondo senza mignotte, che tristezza. Cruciani, tu sei d'accordo con me, ma anche Parenzo. Giorgio, Milano, Giorgio, vai. Sì, allora, ieri sera ho letto quelli accusati, quei cinque lì arrestati, e ho scoperto di aver conosciuto in giovinezza benissimo una di queste persone. In giovinezza? Quanti anni hanno questi qua, scusa? Sono giovani pure loro? Se leggete questi cinque, alcuni non hanno 20 anni, appunto. E dunque, quando l'hai conosciuti, scusa? Quando avevamo 20 anni, 18, 22. E ho chiamato per dire... sarà luogo comune, sono figli di papà, andavano in giro i genitori, ora che parlavate. Scusami, anche della BMW. Sì, sì, no, non ho capito. Allora, con la BMW della Madonna del Paparino. Cioè, ci sono alcuni nomi, quali conosci tu esattamente? Non te lo dico. No, facile. Vabbè, che c'entra, sono 5, dai. Non hanno 20 anni. Davide Pasquale 32, Mirko Leone 27, entrambi incensurati rispettivamente di Alessandria e Lodi. Questi qua, uno di questi due, no, quello di Alessandria no, magari. Mirko... Non te lo dico. Vabbè, ma qual è il problema? Non ho capito. È facile? No, non è facile. Allora, essendo miei coetanei, io ne ho 44, vedi tu. 44? Chi c'è di 44? Aspetta, ce n'è uno che è... se non mi ricordo perché non ce l'ho qua sotto. Tanto non te lo dico. 27enne, comunque, 32... Oh, la storia non si smentisce mai. 68, 77, vai a vedere. Ma è donna questa qua? Compagni col culo degli altri. Vai a vedere. Paparino con Heidi Panzetta, conosci Heidi Panzetta, barista di 42 anni, questa, è questa. Non lo so, non ha 20 anni. Non allora, ha 20 anni, ma è una donna o un uomo? Non mi ricordo. Ma dai, su, dai. Comunque, vabbè, questa qua è Heidi Panzetta, Heidi Panzetta, una di quelle fermate. Comunque vabbè, allora per dirti che è una, figlia di papà. Mentre aspettavo pure dei BMW bruciati, questi andavano in giro proprio col BMW della Madonna del Paparino. Ma che vuol dire figli di papà? Che facevano 78, i genitori? 77, tenuta all'estero, 2 mesi nel luogo esotico dal papà tutte le estati, eccetera eccetera. Vabbè, non mi stupisce, non mi stupisce. Appunto, ho chiamato per dirti questo prima di tutto, ma poi ti volevo dire un'altra cosa, però adesso mi viene in mente. Dimmi. Fai tanto il libertario, no? L'anticomunista, le tasse, no, le tasse. Anticomunista, adesso vogliamo antifascista, mettere le tasse anche sulle puttane. le tasse bisogna diminuirle in Italia, sempre, no, però, sempre alla fine va a parlare sulle tasse. No, però Giorgio, io non è che voglio mettere le tasse perché mi piace mettere le tasse sulle prostitute, sto dicendo semplicemente che le stesse prostitute, magari molte di esse, sono d'accordo con te, però le tasse bisogna toglierle, ma a me lo dici nel tranello sempre di queste tasse, tasse, italiani. Tasse, tasse, questo è vero, tasse, tu non hai tasse, torto, perché se cominciamo a dire mettiamo le tasse sulle prostitute eccetera, poi va a finire che sempre lì, che siccome lo metti alle corde la crisi, così vedi che mi dai ragione, alla fine non si può fare nient'altro che aumentare le tasse, da quando sono nato è così. Grazie, Roberto Trani. No, no. Roberto. Mi sono divertito parecchio a sentirvi stasera tra Capanne e la signora Legrotta di 63 anni, ma il problema rimane. Ma tu ci andresti con una di 63 anni? Penso proprio di no. Perché no? Perché non mi tira, che te devo dire? Perché? Non mi tira un di 63 anni. Fermo, fermo lì, non ti tira. Traffico. Buonasera e buona coda chi è in macchina come me. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Sì, sono qua. No, dicevo, il problema al di là della vecchietta è che in Italia ci sono sempre delle leggi che devono essere iper garantiste e quindi come tale non garantiscono nessuno. Quindi questi stronzi che vanno a spaccare tutto, qual è il problema? Che si mettono davanti a quelli che non sono coperti. Sì. E la polizia non attacca. Se quelli che sono non sono coperti sanno di essere menati pure loro dalla polizia, perché è opportuno che uno che spacca tutto la polizia faccia il servizio pubblico, la protezione del servizio pubblico, cioè della cosa altrui, cambierebbero i giochi, perché il concetto di libertà in Italia, uno pensa io sono libero faccio che cazzo voglio, no, non è così, uno è libero finché non invade la libertà dell'altro, certo. Allora è libero, invece in Italia uno dice no, io sono libero, spacco tutto, faccio così, tanto spacchi poi... tutto quando sei in gruppo e quando c'è la maschera, sì, perché se lo fai da solo ti prendono subito. No, sono dei pezzi di merda, come quel ragazzino lì che è andato a casa, ha preso due schiaffi dal papà e è tornato a dire no, io ho sbagliato, ci ho ripensato. In Italia bisogna cambiare cose, cioè se quando la gente va in piazza, ammesso che sia debba essere autorizzata una manifestazione di questo tipo, sarebbe opportuno che quelli che vanno mascherati, appena accendono un qualsiasi cosa, poi si interviene li mena e li sbatte dentro, e se poi ci va il tizio che piglia una sberla in più, viene strattonato, e vabbè, ma sai di andare in un posto un po' complicato, statene a casa, o manifesta cacciando questa gente, non facendola partecipare. No, ma tu hai ragione, perché spesso le persone che stanno lì, a parte che questi non erano nella coda del corteo, ma erano al centro del corteo, certo, tutti dicono c'è la manifestazione, no, hanno distolto poi l'attenzione dai temi della manifestazione, tutte minchiate. Queste persone qui sanno benissimo che nella loro manifestazione ci saranno i black bloc, alcuni sono addirittura conniventi, altri non hanno il coraggio di intervenire. Altri ancora dovrebbero avere invece il coraggio di andarsene, lasciarli da soli, isolarli, perché questa è gentaglia che approfitta di fare casino non portando nulla, perché stiamo parlando da giorni di gente che ha rotto e non ha detto una cosa positiva. Che cosa hanno detto? Ma nulla, ma che devono dire? Ciao, Daniele Torino, Daniele, vai. Sì, ciao, buonasera, sono Daniele Torino. Niente, volevo dire, magari con lo stile di Sgarbi, al signor Capanna, magari di dire un po' vergogna, cioè una persona che comunque ha quella pensione lì e resiste a non rinunciare il 10% della cosa. Quando ci sono delle persone... No, e poi parla della fame nel mondo, dai su, ma questa è vergognoso, è una vergogna, mi posso permettere una cosa molto personale. Dimmi. Ho una mamma di 78 anni, una minima, non può più vivere da sola, io, mio fratello. Bravo. No, ma digli a Capanna di dare il suo 10% a tua madre, ma dai. Che ci fa con 10% la mamma? Digli a Capanna, dai il 10% per mia madre, subito. Le case di riposo hanno dei prezzi terrificanti che vanno attorno ai 2.000-2.300 euro senza nulla di che. Ecco, io volevo soltanto dire quello: 600 euro e fai, e questo qua si vergogna, però fa del sociale e dice no alla fame. Complimenti, vero? Ciao, Daniele. Ciao. Allora ragazzi, in queste elezioni regionali, nelle prossime elezioni regionali succede di tutto. Il massimo è in Campania. La Campania è fonte di mille storie, caro Parenzo, mille storie. C'è un signore. E la Puglia, no, invece. Sì, anche la Puglia. La Campania, in questo caso, la candidatura di De Luca ha messo intorno a sé diversi personaggi. De Mita, si va da De Mita ai fascisti. Diciamo la verità. C'è un tizio che si chiama Aveta, se non sbaglio Pasquale Aveta. Carlo Aveta, che era militante della destra di Storace e che adesso si candida pacificamente, tranquillamente per De Luca, dicendo pure che no, è uno che farà, no, è uno bravissimo, un grande amministratore, eccetera, eccetera. La cosa incredibile è che questo qua va a Predappio in per omaggiare la tomba di Mussolini e poi soprattutto qualche tempo fa ha scritto sul suo profilo Facebook che quelli che vanno in giro nudi, c'era una foto di tre omosessuali, gli fanno schifo, cioè gli fanno schifo le foto o gli omosessuali in piazza nudi, no, a petto nudo, che esibiscono un po' la loro froceria. Vediamo un po' se con De Luca sì, questo è con De Luca, capito? Vediamo un po' se lo pizzichiamo questo qua che dice che i gay che manifestano la loro omosessualità fanno schifo. Sta con De Luca, la sinistra, Pronto? Aveta? Sì. Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, come sta? Bene. Senta, com'è tutto potrei questo? Potrei stare meglio se non fossero diffuse notizie false sulle cose che ho detto, perché certe cose io non le ho dette. Ma quale, cioè, per esempio? Quali cose non ha detto? Io ho semplicemente detto che quella foto mi faceva schifo. Del resto ci sono tre persone nude, seminude per strada. Sì. Punto. Non ho mai detto che mi fanno schifo. E oggi l'ho anche smentito con un comunicato. Allora mi rendo scusi, conto lei ha che detto, no, male. Scusi, Aveta, lei ha detto una cosa. Si può ancora dire in un paese libero e democratico che i gay mi fanno schifo? Cioè, le fanno non l'ho detto. Il post dice un'altra cosa. Si può dire che questa foto fa schifo? Cioè, non ho detto la parola gay, non l'ho mai nominata in vita mia. Che foto c'era? La foto di tre uomini in baby doll che camminavano per strada. Vabbè, a lei i gay pride fanno schifo? No, a me fa schifo vedere le persone nude per strada. Ma no, per ma un senso del pudore. Lei non diceva, anche le donne, lei non diceva anche solo le persone nude. A lei fanno schifo i gay che esibiscono la loro omosessualità. Ma però lo pensa? Non lo penso neanche. Io ho commentato una foto di tre uomini nudi per strada. Ma se fossero tre donne, scusi, nude, mi danno fastidio. Le tre donne nude mi danno fastidio. Però, così come mi danno fastidio due eterosessuali che si baciano per strada davanti ai bambini che passano. Ma perché? Quello che si chiama senso del pudore, che male che c'è più in questo paese. Che male c'è, scusi, se due eterosessuali si baciano? Uno si può sbaciucchiare e stare nudo in casa, ma non per strada. Ma nudo, che perché non si chiama, è il senso del pudore. A lei non piace il gay pride, diciamo la verità. No, non mi piacciono le manifestazioni, diciamo, che scantonano in qualcosa di indecente. Cioè, fosse per lei i gay pride non si farebbero. Sicuramente non è un bel vedere. Non è un bel vedere il gay pride. Vabbè, senta, Aveta, ma la questione del fascismo invece? Cioè, lei perché va a Predappio? Io ci trovo a passare di là come uno passa per altri monumenti. Ma non è che, lei può dire che è passato per caso lì, Aveta? In 41 anni, ci sarà andato 4-5 volte. Vabbè, 4-5 volte, cioè, vuol dire, ma cosa c'è a Predappio? Ma non, certo che no. Ma non ho detto che è un reato, assolutamente. Quasi come che se uno si drogasse, che se uno facesse delle rapine, insomma, è un monumento visitato da mezzo milione di italiani. No, ma io non dico niente, ma lei che cosa ci trova di positivo in Mussolini? Di positivo ho trovato alcune cose che sono state fatte, l'ho ribadito, la sanità pubblica, la previdenza pubblica, le opere pubbliche che sono state fatte in quel periodo. Un sacco di roba. Cioè, ci sono le cose negative. È stato un grande statista, secondo lei? Per l'epoca lo diceva anche Churchill, non lo dico io, lo diceva Churchill, che era un grande statista. È stato un grande statista, vabbè. Poi ha fatto una serie di errori madornali enormi, le leggi razziali, la guerra, l'alleanza con Hitler. Per esempio, lei ha chiamato suo figlio Benito. No, Angelo Virgola Benito. Vabbè, Angelo, che meraviglioso. Però, Aveta, lei è anche simpatico, però il fatto che lei abbia chiamato suo figlio Angelo Virgola, fermiamoci solo un attimo su questo. Angelo Virgola. Ma non ho detto che è un reato. Ma non è tutto però, un reato. Assolutamente no. È chiaro che lei è un po' nostalgico. Su, ha chiamato suo figlio Benito, è andato 4-5 volte a Predappio e pensa che Mussolini delle cose positive l'ha fatte. Io non sono nostalgico. Io dico che in un periodo storico ci sono luci ed ombre. Dopo 100 anni si continua a non valutare. Sì, ma non c'era la democrazia all'epoca. Per quello era un problema, sicuramente. Beh, non è un problema da poco. Era il problema. Cioè, anche le cose positive, magari, se poi si possono. Oggi, oggi c'è invece la democrazia che ci detta l'Europa e affama i popoli europei. Questa è democrazia. Cioè lei dice che alla fine quello è fascismo, com'era fascismo Mussolini, è fascismo pure quello dell'Europa. La democrazia delle banche che stampano monete e che vendono col signoraggio, questa è democrazia. Vabbè, dunque anche secondo lei oggi non c'è democrazia. Siamo messi maluccio, dico. Quando ci va a Predappio, che succede? È vero che lei ha messo dei fiori? Non mi ricordo, forse qualche volta avrò messo anche dei fiori, sì. Lei all'inizio ha detto passavo lì per caso, adesso siamo arrivati al fatto che è andato lì a mettere dei fiori. Lei è andato deliberatamente allora, a mettere dei fiori? Uno passa, si ferma fuori, compra i fiori e li mette. C'è comunque una persona lì che è deceduta, il rispetto per i morti credo che sia dovuto a tutti. Scusi, no, uno va alle fosse ardeatine a mettere i fiori in genere. Per l'amor di Dio, no, i fiori si mettono a tutti i morti. No, tutti sono no. Tutti uguali. Ma senta, lei si candida con De Luca, è stato militante della destra, non sembra un po' strano? A livello regionale non si trattano argomenti ideologici, si trattano argomenti amministrativi, di amministrazione. È normale ed è onesto accorgersi che chi sta governando sta facendo cose negative per la propria terra. Invece dall'altra parte c'è un uomo che ha fatto tante cose positive da sindaco della sua città e che se le facesse anche per tutta la regione forse sarebbe un qualcosa di positivo per tutti i cittadini. De Luca ha un po' un piglio mussoliniano nelle cose lo che dice fa. Dice lei, non credo che abbia il piglio mussoliniano. Renzi però sì. Renzi è un uomo del fare, lo sta cercando di fare. Se ha il tempo per dimostrare quello che dice, probabilmente risolve qualche problema. Ma lei è diventato da militante della destra a renziano? Ma va bene tutto? No, io sono diventato un cittadino che vuole che la politica risolva i problemi. Se li risolve la destra mi sta bene la destra, se li risolve la sinistra mi sta bene la sinistra. Io credo che gli steccati ideologici e queste barricate del millennio scorso siano cadute. Ma qualche canzone del ventennio se la ricorda? Ma sono ogni tanto le sento per televisione perché c'è quella radio come Rai Storia che fa i documentari e le sento. E si emoziona ancora? Faccetta nera, bella Abissina. Beh, deve essere una bella emozione, o no? Non c'ero, sono nel 74, non me lo ricordo. Ha capito? Va bene. 1974. Grazie, arrivederci. Viva la sincerità di uno come Taormina che almeno disse: è meglio bagato in testa che bagato in culo. Devo dire la verità. Di fronte come a questo signore. Come dimenticare questo aforisma? Come dimenticare: meglio bagato in testa che bagato in culo. 20 e 30. Vabbè. Due gay che si baciano, mi fanno schifo. Due gay che si. Ma non ci abbiamo un po' del professore, non ci abbiamo un pensavo cazzo. Pensavo volessi parlare di Varoufakis. Attiriamo. Ah, che Varoufakis. No, tiriamo qualcosa del professore prima di dare la linea alla borsa. Ci vuole per introdurre. E che cos'è? E che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Vabbè, d'accordo, questo detto di maiali, bagato in testa e bagato in culo, dai su. Ale. Che cazzo, dai. Ma io sarò bagato in testa, ma se visto se è bagato in testa che è bagato in culo, scusi. Ah beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, eh. La Zanzara. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Manifestazione di oggi per la legalizzazione della prostituzione. Salvini. Decido io che cazzo facciamo, vai. In tutti gli 8.000 comuni italiani, da domani, per togliere dalle strade, ripulire, regolamentare e tassare la prostituzione. Ma Salvini è mai andato a prostitute? Lei è mai stato con una prostituta? No, però non do giudizi morali su chi ci va e chi fa quel lavoro lì. Mi piacerebbe che avesse i diritti e i doveri di tutti gli altri lavoratori, quindi avesse garanzia. A un certo punto è arrivato uno del Fatto Quotidiano che mi ha chiesto: ma tu sei mai andato a prostitute? E tu ovviamente. Ma io ho detto la verità. Io sì, un paio di volte, ma per sperimentare anni fa, diversi anni fa. Tanto si dice sempre così, diversi anni fa. Non mi ricordo, in Svizzera, in Austria. No, però è vero. dirò che non è una cosa che gradisco particolarmente, perché non me ne frega niente. Non ho mai avuto bisogno. C'era la manifestazione della scuola anche. Ma chi se ne frega? Ma ti pare possibile? Una roba vecchia, antica, la manifestazione sulla scuola. Gli italiani sono disinteressati. L'unico problema, l'unico problema sono state le famiglie che hanno dovuto, come dire, gestire una giornata con i figli che non potevano andare a scuola. Questa è l'unica cosa che, che le persone hanno, come dire, che hanno sentito sulla loro pelle. Ma torniamo dopo un po' di giorni con la rubrica di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania, allora spara, la vecchina spara, guarda avanti. Servi di Roma il tuo fuori, fucile, senza dubbi punta né direttamente sul campo rom. Caricalo a pallettoni, guarda, spara avanti. Prendi di mira non il caprom a te più vicino. Vai vedere. Li hanno i macchinoni di grossa cilindrata, i Rolex dorati. Prendi la mira, vai vedere, e spara tutte le pallottole che puoi. Radi al suolo il campo rom, anche con una ruspa. Vedrai, si vincerà. Sempre la fronte nazionale, e con Matteo Salvini in testa. Fermi tutti, ascoltatori di Radio Padania. No, ti volevo dire che la legge Telecom è proprio quella legge che dice prendetelo nel culo. Servi di Roma fuori. Ma che cazzo di lingua parla questo? Ma fatti un corso di italiano. Ma questo altro che terrore, questo è peggio degli arabi. Falso che ci spreme. Un bel clima. Pronto? Buongiorno. Sono una Picerno. Lo sapevo io. L'ho visto l'arena domenica, quella stronza lì l'ho sentita. In senso politico, certo. Vabbè, ma è una tipetta un po' così, che sei un po' per malosetta. Senza dubbi né ripensamenti. Hai dimenticato una cosa fondamentale. Questo volevo insegnare agli italiani, che con 80 euro si campava 2 settimane. È vero. Ci siamo dimenticati di questa persona che andava in tutte le televisioni a pontificare gli 80 euro lordi, dove lei ci faceva vedere come cazzo si faceva la spesa. Si deve solo che vergognare la signorina. Guardava. Io penso che qualsiasi persona per permettersi l'auto oggigiorno si fa il culo 4x4 come si deve. Ma chi sono questa gente per autorizzati a difendere e a scassinare questi 4 delinquenti di merda dei centri sociali? Che gli diamo spazio, ma il diritto alla difesa della proprietà propria dove sta? Però è interessante il diritto alla difesa della proprietà propria, è bellissimo come espressione. Interessante, non lo so. Francesco, provincia di Foggia, vai. È uno zoo. Ciao, dimmi. Volevo soltanto parlare un attimo di Capanna, no? Io sono un lavoratore dipendente responsabile di un'azienda. Sì. Allora, lo stipendio mio lo decide il mio datore di lavoro. E per Capanna non vale, perché per sua stessa missione ha detto che il suo datore di lavoro è la gente. Sì. E non mi sembra che decida il suo stipendio. Ma quale gente, dai su, ma è una buffonata, dai, su. È il noi prendiamo i soldi da Confindustria, lui invece da chi lavora per le persone. Ma vi rendete conto di quello che dice? Uno che è un privilegiato, che non vuole mollare il 10% del vitalizio, e poi rompe i coglioni a noi perché siamo stipendiati tra virgolette da Confindustria. Ma dico, ma siamo impazziti o no? È il prototipo del comunista radical chic. Dai, comunque, su. Seconda cosa, io sono soggetto a raggiungimento di obiettivi, cosa allora? Che non vale per lui. Dunque? Sto facendo un paragone tra un lavoratore normale e Mario Capanna. Poi lui ha detto che ha fatto ricorso perché doveva tutelare i suoi diritti acquisiti. E se io ho il mio stipendio e lo Stato per lo stesso motivo aumenta le tasse, non vengono a togliere i soldi a me, quindi dovrei fare anche io ricorso al TAR. No, ma certo, non c'è dubbio. Mauro da Bologna, vai, Mauro. Sì, ciao Giuseppe, ciao David. Io chiamavo proprio per la stessa cosa per la quale ha chiamato la persona prima, però con motivazioni diverse. Il discorso è che innanzitutto Capanna ha detto che se il governo si sveglia una mattina può venire a tassare la tua pensione, e non è vero, perché il discorso è che quindi è la stessa cosa che sarebbe successa a lui, non è vero, perché naturalmente il suo è un vitalizio e la nostra è una pensione, tra l'altro arrivare alla quale ci sarà anche da discutere. E poi secondariamente ha detto anche un'altra cosa molto simpatica, che lui quei soldi li usa per combattere... Sì, ma uno li può usare come vuole, ma non mi interessa come usa quei soldi, per fare beneficenza, per fare assistenza agli anziani, non è importante, non è che è più buono chi fa l'assistenza agli anziani del cattivo che dispende a billionaire a bere champagne, Ma certo, ma è naturale, quello che dico io è che è difficile farlo dalla villettina sui colli umbri sotto all'ombra degli olivi. L'ha detto lui, quindi alla fine della fiera. E a me francamente è scoppiato un embolo quando mi ha detto sta roba qua, che io ti giuro l'ho ripresa a schiaffi. Poi io ho 51 anni, io la storia di DP me la sono vissuta. La storia, la storia di Democrazia Plurale. Ma chi se ne frega adesso? Mauro, ciao. Faccio per dire, ciao. Vabbè, ma ciao. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't. Allora, nel torinese, in un posto che si chiama Nole, torinese, un anziano di 79 anni è stato assalito durante la notte da tre albanesi. Aveva un fucile, ha sparato a uno di questi, cioè ha sparato nel mucchio, diciamo, no? Almeno da quello che si sa. E ha ferito in maniera piuttosto grave uno di questi rapinatori albanesi, ma potevano essere anche italiani, eccetera, eccetera. Uno di questi è uno di questi malviventi ferito, rischia la paralisi. Allora, il tizio si chiama Adalgiso. Lo abbiamo chiamato a casa. Sentite. Pronto? Sì, signor Adalgisi? Sì. Buonasera, qui Radio 24, salve. Volevamo sapere che cosa era successo ieri notte. Purtroppo non lo so, le passo mio figlio un attimo solo. No, ma è lei quello che ha sparato? Sì, ma non ne capisco niente. Ma mi dica un po', ma come che cosa è successo? Ha sentito delle persone che entravano? Che è successo? Ma non lo so, non dormivo io. Ma chi ha sparato, lei o suo figlio? Le passo mio figlio un attimo, perché è in linea. Pronto? Salve, buonasera, sono Cruciani da Radio 24. Oh, buonasera. Come sta? Insomma, diciamo che abbiamo visto momenti migliori. Ecco. Mi scusi se la disturbo, può dirci qualcosa su cosa è successo? L'unica cosa che posso raccontarle è che mio padre ha reagito per non soccombere all'interno della propria camera da letto, punto. Cioè, per non soccombere che significa? Che ha visto un pericolo imminente, che era normale? Erano tre persone incappucciate all'interno della propria camera da letto, veda lei, di notte. Ma è abituato... Ma com'è che ha avuto la prontezza di prendere l'arma in un contesto... Guardi, io penso che non sia una questione di prontezza, penso che sia veramente solo una questione di sopravvivenza. Cosa prova lei nei confronti della persona colpita, lei che è il figlio? Dispiacere, perché secondo me colpire comunque una persona è una cosa che io sono per l'antiviolenza, però di fronte a un atto dove o tu o io, penso che l'essere umano sia fatto per cercare di sopravvivere. Senta, ma le tre persone erano armate? Su questo non sono in grado di dirglielo, perché non ero presente al momento, dovrebbe chiederlo alle autorità competenti. Ma da quello che ha saputo da suo padre, c'era un pericolo imminente, nel senso che stava semplicemente la paura di trovarsi persone in casa, oppure stava per essere aggredito? No, è stato aggredito per svegliarlo e chiedergli ovviamente dove potevano esserci soldi e cassaforte. In che condizioni è suo padre? È sicuramente molto fragile, perché una cosa di questo genere l'ha scosso. Poi da questo punto di vista è anche cardiopatico e di conseguenza ecco perché parlo io, no, certo, certo. Perché voglio evitarle problemi ulteriori. Ma c'erano delle cose in casa preziose? No, la nostra è una famiglia tranquilla e di queste cose qui non ce n'erano, evidentemente avevano pensato malamente, ecco, però purtroppo la vita è così. Oggettivamente per lei è legittima difesa? Allo stato attuale le posso riferire che mio padre non è indagato e di conseguenza ho piena fiducia nelle autorità competenti. È abituato a sparare suo padre? Questo. No, penso che era 40 anni che non sparava un colpo. Oh, 40 anni addirittura. Ha centrato però. No, un'ultima cosa è questa, secondo lei le persone in Italia, gli anziani nelle zone isolate, insomma, in generale, sono protette? No. Non sono protette? No, assolutamente, anche perché dalle nostre parti nel Canavese dove io abito, di queste cose qui ne capitano spesso e volentieri, dove ovviamente gli anziani vengono malmenati e rapinati in maniera, diciamo, particolarmente violenta. Ecco. Ha telefonato qualche politico? No, e direi che insomma non lo gradisco neanche, ecco, diciamo così. Grazie, molto gentile, arrivederci. Salve. Saluti. E adesso incriminatelo magari, no? Incriminate questo signore di 79 anni che non credo che abbia rincorso questi tre ladri albanesi. Si è svegliato perché qualcuno lo strattonava, ha preso il fucile, certo, e ha sparato, dai ragazzi. Non è indagato, per fortuna. Antonino, provincia di Firenze, vai. Buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi. Dicevo al compagno Capanna, sì, che da comunista pentito ho avuto un urto di vomito quando lo sentivo parlare prima. Cioè? Volevi vomitare? Sì, ho avuto, ma giuro veramente, da comunista pentito. Che mi mandavano a fare le manifestazioni negli anni 70 dal lavoratore dipendente raccontandomi un sacco di cazzate, io li ho anche votati, vabbè. Signori, adesso non vuole rinunciare al 10% del vitalizio, è una cosa vergognosa, è scandalosa. E poi ci fa anche il pippone sul coso, il pippone sulla fame nel mondo, sui poveri, sulla disuguaglianza sociale. Ho sentito tutto. La disuguaglianza sociale, ma di che stiamo parlando, dai? Io vi ringrazio. Un momento. No, un minuto e 40 secondi. No, non c'è più tempo di replicare, rotti i coglioni, Capanna, dai, forza, basta. Andrea da no, chi c'è? Daniele da Pescara. No, non Daniele da Pescara, chi c'è? Lo 0,5% delle risorse sono in mano a delle persone come voi che al momento governano pure la Confindustria. Quindi voi rappresentate lo 0,5% del pianeta, guadagnando milioni di euro ogni giorno sulle tasche di quei poveretti che invece rappresentano il 99,9% della popolazione mondiale, secondo la FAO e all'ONU, hanno detto che quindi al 4,4% rivalutando il tutto rimane chiaro. Ma che cazzo dici? Rimane chiaro il percorso. Andrea, provincia di Siracusa, dai. Rimane chiaro che voi siete pagati per fare soltanto casino. Sì. Okay. Dimmi, dai, forza. Allora, io dico una cosa, nel 1848 non mi puoi rompere i coglioni su 1848. C'è un motivo 1848. No. Sì. Quando dovevano fare la rivoluzione, non è che andavano dalle autorità e gli chiedevano: scusate, non è che per caso potremmo fare la rivoluzione? Che stracazzo c'entra? Per fare la rivoluzione. Ma secondo te chi è che farebbe la rivoluzione? Secondo te chi è che sta facendo appunto la rivoluzione? Perché ormai non c'è modo di più di fare la rivoluzione. Ah, perché tu invece dalla provincia di Siracusa, Andrea, vorresti fare la rivoluzione? Sì. A te piacerebbe la rivoluzione, ma rivoluzione come? Adesso. Prima di mandarti a fare in culo, dammi qualche altro elemento in più. Quale rivoluzione? La rivoluzione non si fa sicuramente bruciando le macchine, bruciando la come? Gente che paga le tasse, che e non c'entra uno stracazzo di niente. Fa la rivoluzione, vuol dire andare nei centri di potere, dare qualche calcio in culo. Dare qualche calcio in culo. Ma te, appena vai nei centri di potere a dare qualche calcio in culo, arriva un manappuntato dei carabinieri, ti prende a calcio in culo e ti riporta via. Un appuntato dei carabinieri a prenderti e a riportarti a casa e dire: vai a lavorare adesso. Vai a lavorare, ma dai, vai a guadagnarti la pagnotta invece di rompere le balle con la rivoluzione, dai.